Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi suggerirei di procedere in ordine sparso perché gli argomenti ereditati sono davvero tanti, qualcuno ha avuto sviluppi, altri imprevedibilmente se ne sono aggiunti. Io comincerei subito dalla proposta lanciata ieri dal procuratore della Repubblica di Cremona, la PM De Martino, che indaga sul calcio scommesse e che suggerisce una sorta di amnistia per chiudere questa vicenda e voltare pagina. Partiamo di qui, poi ovviamente, come ben capite, gli argomenti sono tanti, ma questo è quello che ha suscitato le reazioni più attuali da parte del mondo dello sport, che vi anticipo, come è intuitivo, ha ampiamente bocciato questa proposta. Il procuratore Di Martino: secondo me sarebbe auspicabile qualche provvedimento tipo amnistia, non lo so, in senso sportivo soprattutto, non tanto dal punto di vista penale, cioè qualche cosa che consenta, diciamo, un chiarimento e di ripartire da zero senza provocare danni a nessuno, insomma, in modo da dare consentire una ripartenza e una qualche moralizzazione, insomma, reprimere questi fenomeni che, diciamo, sì, per lo sportivo corretto sono veramente fastidiosi, insomma. Se non so se si è interrotto, se continuava, comunque non ha grande importanza. Io credo che possa bastare in ogni caso quello che abbiamo sentito. Dato che già probabilmente ne dovrò esprimere più avanti di opinioni forse non proprio come dire molto, molto politicamente corrette, evito di commentare questa sortita del magistrato, ripeto, del PM di Cremona, e lascio la risposta, che è già arrivata a stretto giro di posto ovviamente, per esempio dal presidente del CONI Petrucci, che ha detto: rispetto l'opera dei magistrati, dunque ringrazio Di Martino per il lavoro che sta facendo, ma ho già sentito anche il presidente della FIGC Abete, e quella dell'amnistia sportiva è un'ipotesi irrealizzabile. E poi ha aggiunto Petrucci: proprio il CONI, in osservanza al CIO, ha varato di recente un codice etico per il rispetto dei principi di lealtà e correttezza sportiva. È evidente che non possiamo essere favorevoli ad un'amnistia, nel momento in cui vengono alla luce certi episodi, il nostro discorso deve essere chiaro dall'inizio e non dare adito a dubbi o interpretazioni diverse. Sinceramente una sortita, quella del PM di Cremona, abbastanza sorprendente per non dire di più. Il direttore generale della Federcalcio, Valentini, invece stamane, a margine di un festival sulla cultura del calcio organizzato stamane a Roma in Campidoglio, ha dato eco, direi, ad un intervento di ieri del presidente federale Abete a Coverciano, dicendo testualmente che lo spettacolo di sabato sera tra Milan e Juventus è stato uno spot contro il calcio. C'è stato un clima di esasperazione e tensione che di certo non ha fatto bene al mondo del pallone italiano. La partita è stata caricata da tutti, protagonisti e non. La partita continua con le reazioni alla squalifica per 3 giornate, toccata inevitabilmente, direi, a Mexès sulla base delle immagini televisive, ma ci sono almeno altri 2 capitoli che secondo me vale la pena di introdurre, in attesa poi di ascoltare i vostri interventi e di proporvene molti che nel frattempo, non molti, molti perché li ho selezionati, sennò sarebbero un numero improponibile, di interventi scritti che sono arrivati nel frattempo all'indirizzo di posta elettronica. Il primo di questi capitoli è l'intervento del presidente dell'AIA, Nicchi, a proposito del regolamento, un intervento che è stato, a parer mio, non meno sconcertante di quello del PM Di Martino, anzi, se vogliamo, pure di più. Ormai è stato anche dichiarato che nessuno intende aiutarci. Le TV fanno le telecronache sugli arbitri, ormai succede di tutto e di più, si vedono ormai cose che non credo siano gratificanti. Ogni volta che la palla arriva in area di rigore ci sono 5 giocatori che si strattonano, che cadono per terra, 10 mani che si alzano a reclamare chissà che cosa. In ogni fallo laterale c'è un mezzo vaffa. ed ora in poi applicheremo il regolamento in modo restrittivo. Siccome il regolamento prevede che quando uno protesta deve essere ammonito, deve essere ammonito. Se protesta fuori dalle righe deve essere espulso. Se un giocatore entra a piedi pari in un avversario deve essere espulso. A metà strada, vale a dire nell'incertezza che il fallo sia grave o non sia grave, fuori. Così incominciamo anche a rimettere un po' d'ordine in campo, perché questo è quello che ci viene chiesto. Titolo del Corriere della Sera: il presidente degli arbitri adesso si applica il regolamento. Domanda: e prima? Nicchi in fuorigioco, Figici infuriata. Il commento di Fabio Monti, per esempio, dice: c'è chi è riuscito a fare peggio di Tagliavento, di Romagnoli, di Liberatore e di Rizzoli in Milan-Juve. Ed è Marcello Nicchi, il presidente dell'AIA. Prima si è presa con arbitro, assistenti e quarto uomo. A Milano sono stati compiuti errori gravi, e poi possiamo sentire anche questa parte. Eventualmente, ma poi, continua Fabio Monti, ha fornito spiegazioni sul futuro arbitrale che hanno inquietato persino i vertici della Federcalcio. I direttori di gara vanno aiutati, non condannati, né daremo viola né ai giocatori, e protestano ogni due minuti, e fin qua ci siamo. Anzi, vi dico di più: da questo momento mi sono stufato, ci sarà tolleranza zero su tutto, c'è un regolamento e va rispettato. Avete sentito le parole di Nicchi. La domanda che si pongono anche in via Allegri, sede della FGC, dove non hanno trovato nemmeno geniale l'idea di mandare a San Siro come quarto uomo Rizzoli, quello di Milan-Napoli e quindi di Ibrahimovic e Aronica, è la seguente: ma fino a ieri mattina che cosa facevano gli arbitri della CAN di Serie A e anche di B? Non applicavano il regolamento? Si facevano comandare da presidenti, allenatori e giocatori? Oppure dalle TV, che esigono partite con poche interruzioni e molto ritmo? E ancora, perché gli arbitri non fischiavano quello che invece era da fischiare? Veramente inquietante questo intervento di Nicchi. Cominciamo con qualche mail, così vi do un'idea, no? della posta arrivata in questi giorni. Ovviamente ho cercato di selezionare le più curiose, anche le più... questa non ve la commento, ve la commentate da soli. Scrive un signore Lavarazze con una sigla, ma insomma, però l'indirizzo di posta elettronica c'è, quindi... Dice: secondo me la cupola che ha deciso di far vincere il campionato alla Juventus ha preparato questa porcheria per il Palermo, e cioè Siena-Palermo di sabato, di domenica, per incattivirlo e far trovare domenica un inferno al Milan. Il Milan poi gioca sabato, per la verità, in anticipo a Palermo. Un'altra: al di là del comportamento di Buffon, scrive Cristian Posocco, ho una perplessità. Perché si discute solo se Buffon avrebbe o meno dovuto informare l'arbitro che la palla era dentro, ammesso che se ne sia reso conto, eccetera, e non se i difensori del Milan avrebbero dovuto o meno informare lo stesso arbitro che il gol di Matri era regolare dal momento che questo non si trovava in posizione di fuorigioco? Forse sono sciocco io, o forse mi sfugge qualcosa. Buona la prima, Christian, così a grandissime linee. Luca Carlini si domanda... su Buffon, ma immaginate se avesse detto all'arbitro che la palla era entrata e poi magari entrata non era. La sintesi estrema mi pare questa firmata da Moreno Pecci. Pecci: era sufficiente che Buffon stesse zitto, ovviamente si riferisce al dopo partita. Poi scrive un avvocato, Luca Ferrari da Padova, che dice: non so come la pensi sul caso Buffon, perché ieri non ho ascoltato la sua trasmissione, non c'ero e quindi non la potevano a Coverciano per un impegno, diciamo pure istituzionale, visto che si celebrava un riconoscimento in memoria di Enzo Bearzotte, che facevo parte di questa giuria insieme niente meno che a Dino Zoff. Io penso che Gigi Buffon abbia ragione, scrivo l'avvocato Ferrari, e che la sua posizione sia non solo rispettabile ma eticamente corretta, come insegnava Calamandrei. In ben più importante e ampio contesto, nel processo esistono ruoli ben distinti e definiti. Il rispetto del ruolo è fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia, ingrediente indispensabile di un'autentica democrazia. Come la dialettica tra accusa e difesa nel processo è il miglior modo per avvicinarsi quanto più possibile alla verità, sia pure imperfetta, degli uomini, così dobbiamo guardarci dall'idea che il portiere debba farsi arbitro. Un conto è ingannare il giudice usando una mano per segnare, un altro è fare il proprio gioco fino in fondo e senza distrazioni. Vedete dunque che passiamo dai pareri legali, da autorevoli pareri legali, alla congiura di Siena Palermo per far arrabbiare il Palermo in maniera che sia più cattivo sabato con il Milan. Ci sono alcuni ascoltatori che hanno letto qualcosa sui giornali e mi sollecitano a raccontare la storia di questo riconoscimento in memoria di Bearzot. Lo faccio in estrema sintesi, perché è una storia bella che noi per primi, per la verità, io per primo, ma noi lo dico non come plurale maiestatis, ma come collettività che comprende evidentemente voi ascoltatori. È una storia che conosciamo da un paio d'anni insieme, da quando Osvaldo Bagnoli e il suo amico e socio in affari, peraltro, Franco Nanni, ex compagno di squadra a Verona, hanno raccontato qui a questi microfoni in diretta la storia della Onlus fondata a Verona dagli ex calciatori gialloblu per aiutare gli ex giocatori, per l'appunto, del Verona in difficoltà, quelli con cui la sorte o la fortuna o non so che cosa non è stata benigna una volta finita la carriera, e si parla soprattutto di giocatori di vecchi tempi, per i quali certamente non si parlava dei guadagni di oggi. Bene, dovendo segnalare insieme a Dino Zoff e ad Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport alla Federazione Italiana Gioco Calcio, in memoria di Enzo Bearzot, dovendo segnalare un ente o una persona o una situazione meritevole di attenzione e di aiuto su mandato della federazione, abbiamo per l'appunto deciso insieme di segnalare questa associazione Onlus di ex veronesi, presieduta, lo ripeto, da Franco Nanni e mutuata dall'esempio dei veterani del Barcellona. Ieri era presente a Coverciano il presidente dell'associazione veterani del Barcellona, che si chiama Ramon Alfonseda, che un giorno è intervenuto in questo programma, per chi ha la memoria più sottile, e che è anche il presidente dell'associazione internazionale veterani di tutti i club d'Europa che partecipano a questa iniziativa. Credo che sia stato un buon modo di onorare la memoria di Bearzot. Tutto questo è stato anche l'occasione per un anticipo di auguri a Dino Zoff, che compie oggi 70 splendidi anni e che ha chiesto tregua, almeno per oggi, perché negli ultimi giorni ha rilasciato qualche centinaio di interviste, credo, non soltanto a tutti i giornali, le radio e le TV italiane, ma molte anche in ambito internazionale, e che ci farà visita radiofonica tra un paio di giorni, una volta smaltita l'overdose di questi giorni, il che non impedirà più tardi di ricordare e sottolineare comunque oggi, che è il giorno giusto, la ricorrenza. Roberto ha chiamato da Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Una cosa velocissima. Sì. A parte che mi sembra difficile, parliamo chiaramente di Milan-Juventus, non riconoscere che i due errori, uno a favore del Milan e uno contro il Milan, abbiano lo stesso peso specifico, perché non è così. Forse anche la Juventus avrebbe fatto bene a riconoscere che I due episodi si bilanciano teoricamente, ma all'atto pratico avevano un peso diverso nel contesto della partita. Ma l'allenatore Conte e i dirigenti della Juventus, dopo quello che era stato dichiarato 15 giorni fa dopo la partita col Parma, potevano aspettarsi che le reazioni fossero differenti, al di là della maleducazione, ma nei contenuti? Non lo so, Roberto, sinceramente sono passati quasi tre giorni e le dovessi dire che questo dibattito mi appassionava già la sera di sabato, anzi mi disgustava ampiamente. Credo che adesso, se riuscissimo un po' alla volta a stemperarlo, nel senso che io apro volentieri i microfoni per registrare, così come vi leggo volentieri alcune delle mail che avete spedito per registrare delle opinioni. Se poi la mia non è indispensabile, io sinceramente non ci tenga alla follia, detto tra noi. Ma Tavelli come sta? Domanda un ascoltatore. Beh, Tavelli oggi ha ceduto al disbrigo di affari più urgenti, per dire, e poi al calcio internazionale arriviamo domani, anche nell'ambito di una giornata di calcio internazionale, visto che si giocherà domani sera l'amichevole Italia-Stati Uniti. Gianluca, Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno a lei. Due considerazioni veloci. La prima, per quanto riguarda la dichiarazione di Buffon, so che lei non ha piacere, ma proprio solo telegrafico. Ieri in trasmissione c'erano moltissime persone che hanno telefonato dicendo che erano così disgustati dalla dichiarazione di Buffon perché era diseducativo. Ma io ho un figlio di 21 anni e mio figlio lo educo io, non è certamente una frase o un qualcosa che c'è nel mondo del calcio che può educare o diseducare un ragazzo. Seconda cosa, velocissima, su Ibrahimovic. Io sono tifoso manista da tantissimo tempo, ritengo che Ibrahimovic sia un giocatore straordinario, ma non lo ritengo un giocatore da Milan, per il semplice motivo che ha dei comportamenti che nella storia del Milan, tranne quella più recente, non sono mai successi. E non solo, io ritengo, ma anche, so che questo qua sarà un discorso di controcorrente, ma ritengo che sia deleterio in alcuni casi il giocatore Ibrahimovic al Milan, perché ha dei comportamenti che non sono di esempio sia al di fuori ma anche dentro il campo. Quindi, legato dottore Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Quindi nel caso di Buffon l'esempio non vale, mentre invece nel caso di Ibrahimovic l'esempio vale, cioè... Boh, non lo so, comunque per carità sono posizioni individualissime. Io trovo che Ibrahimovic parlano i fatti, no? su ambo i fronti. Se è arrivato alla non so più che numero, alla ennesima comunque squalifica per comportamenti scorretti in campo nel corso di una partita, significa che da quel punto di vista il giocatore è ampiamente censurabile. Se parliamo da un punto di vista tecnico, se è arrivato all'ottavo o al nono scudetto consecutivo in quattro squadre diverse, probabilmente a pallone la sua parte la sa fare, e mi sembra che questo sia difficilmente contestabile. Poi ho altri vostri pareri scritti che sinceramente mi sembra valga la pena di ascoltare. Beh, questo subito. Ezio Tempra scrive da Verona: mi sto chiedendo da sabato perché la parata di Buffon all'interno della porta non possa essere soggetta a prova televisiva come atto antisportivo. Voi dovete scusarmi, soprattutto mi scusi lei, caro Ezio Tempra, se non ce la faccio a non ridere, ma insomma ogni tanto ce l'ho. Attenzione, aggiunge lei, non voglio fare demagogia, ma mi sto chiedendo appunto da sabato se non possa essere oggetto di prova TV come atto antisportivo. Salvo ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno, desideravo premettere che ci sono trasmissioni come la sua che hanno quel tono pagato da sempre, per cui si può ragionare e si può parlare di qualsiasi argomento. Ci sono trasmissioni che invece alimentano, diciamo, il fuoco. E questa non è la novità, no? Salvo, quindi riusciamo magari a risparmiare tempo. No, dicevo però che praticamente questo fair play di cui si decanta eccetera eccetera, onestamente non l'ho visto. Per esempio, io sono catanese da sempre, e visto che c'è un astio pazzesco fra catanese e palermitani, sembra strano che voglia spendere una parola fuori dai palermitani, ma purtroppo è così. Brienza si rialza quasi a dire non mi è stato fatto fallo dal rigore, e l'arbitro insiste e gli dà il rigore. E quindi sembra troppo intenzionale la cosa. Insomma, come si fa a parlare di fair play di Buffon quando invece magari è capitato a un altro giocatore ma non è stato neanche minimamente ascoltato? Parlare di fair play di Buffon significa dire un'idiozia. Se così, tanto usiamo gli eufemismi. Parlare di mancato fair play da parte di Buffon, se parliamo dell'aspetto tecnico, è un'idiozia, secondo me, in piena regola e con la I maiuscola, anzi tutta stampatello. Oppure la mettiamo su un piano utopico e diventa, come in molti hanno scritto, diventa un'occasione perduta, eccetera. Ma un'occasione perduta a fine partita, allora. A fine partita, quando l'adrenalina è scesa, quando ci si è fatta una doccia, ci si presenta davanti a un microfono, allora Buffon può fare meglio, anzi secondo me deve fare meglio, perché non deve aggiungere la parte finale del suo intervento. Lui dice la prima parte e dice non mi sono accorto, non lo so, sinceramente non lo so, ma se anche mi fossi accorto, ecco, quello io credo che Buffon se lo possa risparmiare. Questo è secondo me un eccesso dialettico da grillo parlante, capita ogni tanto ai calciatori, non so, è successo a Gattuso per esempio anche in più di un'occasione, cioè giocatori che secondo me vale la pena di ascoltare, come Gattuso in particolare, ma ogni tanto gli prende il trip da grillo parlante e vanno, secondo me, vanno un po' fuori giri. Parlare di mancata lealtà in campo da parte di Buffon eccetera è purissima utopia di chi, ma utopia che secondo me non ha fondamento, perché perché astrae completamente dal raptus agonistico, dal momento, da quello che in quel momento si sta facendo e che richiede un livello di concentrazione, di dedizione, di tensione, comporta uno stress che non è paragonabile alla reazione che si può avere, non so, in ufficio quando ti chiedono un parere o quando devi dare un'opinione o devi cosa, lì è tutta un'altra storia. Io distinguerei tra il buffon a caldo e sul buffon a caldo, sul buffon che para e che si rende conto o non si rende conto non ha importanza, ma in ogni caso rilancia immediatamente l'azione per il contropiede, no? Bissando la famosa sequenza di Torino, Giuliano Ronaldo. Distinguerei tra quel buffone e quello invece a fine partita, che se si fermava alla prima frase era secondo me ineccepibile, così a qualche censura può anche prestarsi. Ci sta ancora un intervento? Sì, Nicola, provincia di Milano, buongiorno. Oh, buongiorno dottor Garanzini. Dica. Di solito ascolto in podcast, però oggi volevo intervenire sulla questione di buffone. Io sono juventino da sempre. Sì. Condivido in pieno le ultime sue parole. Poi però volevo dire una cosa, sarei stato molto orgoglioso se Buffon avesse riconosciuto che era gol, subito, immediatamente. Così saremmo stati un po' rivalutati come Juve, come squadra, dopo tutto quello che ci è successo dal 2006 ad oggi, di quei due mascalzoni che cosa hanno combinato. E poi volevo fare gli auguri a Dino Zoff, grandissimo. Sì. Grandissimo Dino Zoff, è l'unico autografo che ho di tutta la squadra della Juve. Uh-huh. E poi un'altra cosa su Conte e poi la smetto. Conte secondo me non doveva dire quello che ha detto quando sui rigori, mica rigori, perché ha creato un casino enorme. Allora uno o parla e dice guarda c'erano due rigori per loro, poi un'altra volta quando c'erano rigori per noi diceva c'erano due rigori per la Juve. Torniamo all'utopia però, non torniamo all'utopia. Senta questa a proposito di Conte, che è carina. Milko Pellegrino da Toria, provincia di Imperia, scrive: se non ricordo male, qualche anno fa era stato proposto a fine partita una specie di rito amichevole tra i calciatori delle due squadre, che era stato subito battezzato a sproposito il terzo tempo, per scimmiottare quello vero del rugby, che è tutta un'altra cosa. Bene, sabato sera Milan e Juve ci hanno concesso l'ennesima versione integrale del terzo round. Credo che Milko Pellegrino abbia fotografato in pieno. Arriviamo a un altro capitolo sì, certo, non ha avuto, se non a Roma e Contado, romano, non ha avuto l'eco di Juventus Milan, ma insomma comunque il suo rumore l'ha pur fatto, ed è il caso Luis Enrique Daniele De Rossi. Allora io prima sentirei il racconto, la ricostruzione che Daniele De Rossi ha fatto di questo episodio, e poi vi leggo quello che è stato pubblicato invece stamane dalla Gazzetta dello Sport. De Rossi: ci tengo a dire che non ho picchiato nessuno, non ho risposto male a nessuno, non sono stato, non so, strafottente o maleducato, insomma questo è, io devo eseguire, sembra quasi una cosa da caserma, da soldato, ma io devo eseguire tra virgolette gli ordini. Si vive abbastanza bene, non facciamo ritiri, abbiamo orari molto tranquilli, arriviamo al campo, quando giochiamo alle 8 di sera arriviamo al campo alle 5, insomma rigida da un certo punto di vista come lavoro in campo, rigida come voglia del mister che si rispettino quelle poche regole che ho messo, e non possiamo lamentarci se poi quando non vengono rispettate, a prescindere dai 3, 4, i 20, i 50 minuti, il mister applichi delle punizioni. Ripeto, lo dite a uno che si è sempre trovato bene con lui proprio per questo motivo, perché è uno che non cambia il metro di giudizio in base alla persona che ha di fronte. Capisco anche che la gente possa aver pensato è impossibile una cosa del genere, magari ha fatto botte con Kier che era seduto in tribuna vicino a lui, ma insomma con Kier non ho problemi, vive a casa mia, se non mi paga l'affitto possiamo litigare. Allora, questo era l'intervento di ieri De Rossi dal ritiro della nazionale. La cronaca invece pubblicata stamane dalla Gazzetta dello Sport, firma Alessandro Catappano da Roma, è la seguente. Da cosa ripartiamo? Dalla versione ufficiale che è quella che abbiamo sentito noi, o da quella Paramigos? Dalle spiegazioni ufficiali che Daniele De Rossi ha dato ieri, o dal contenuto dei messaggini che ha scambiato domenica con Christian Panucci? Dicevano più o meno così: questo è matto, questo è Luis Enrique e questo lo pensano in molti, i tifosi che ieri per la prima volta hanno preso seriamente le distanze dal tecnico. I suoi dirigenti, mai così imbarazzati nel doverne difendere le scelte da ombre vertical e costretti oggi a multare De Rossi, Osvaldo e Cassetti, e i suoi giocatori, mai così provati dalle lezioni di Zichichi, che è il soprannome di Luis Enrique. Con uno scienziato del calcio ci puoi ragionare, ma con un matto dove andrai a finire? Questo si stanno chiedendo alcuni autorevoli calciatori romanisti. E se Luis Enrique perde la stima del suo spogliatoio, che se ne fa delle pacche sulle spalle che ieri gli hanno dato idealmente i suoi colleghi da Prandelli in giù? Scatta la ricostruzione a questo punto, sempre ripeto, di Alessandro Catapano della Gazzetta. De Rossi si è presentato in ritardo alla riunione tecnica delle 13, lui pensava fosse alle 13:30, cosa alquanto strana per un match fissato alle 15, e questo spiega la frase al vetriolo di Luis Enrique: io per questa partita ero pronto alle 7 del mattino. Ma è il botta e risposta scattato dall'ingresso in sala di De Rossi a minare la serenità dello spogliatoio. Questo è lo scambio per come lo abbiamo ricostruito. De Rossi, scusate il ritardo, Luis Enrique, e mica possiamo aspettare i tuoi comodi, l'orario era appeso alla lavagna, non ci sono scuse. De Rossi a quel punto spazientito, non rompa i... proprio a me poi che l'ho sempre difesa. Luis Enrique, per me siete tutti uguali, infatti tu oggi vai in tribuna. Ma dice sul serio De Rossi. Luis Enrique, certo, siccome al tuo posto davanti alla difesa deve giocare Gago, Kier va in panchina e metto Kwan. A questo punto sbotta il danese: Kier, ma come? Sta dicendo che per giocare ho bisogno della badante? Per tutta la settimana mi ha detto che sarei sceso in campo dall'inizio. Retroscena del retroscena, due o tre giorni prima della sfida, Luis Enrique aveva convocato Kier nel suo ufficio. Cioè, il suo discorso era suonato più o meno così: Simon, a seconda, io credo in te, ma domenica ti devi svegliare. Logico che il difensore danese ci sia rimasto molto male. Ma Luis Enrique è stato inflessibile con lui: non ti sta bene, allora vai in tribuna pure tu. È qui che Simone Perrotta, 34 anni, campione del mondo, ha provato a intervenire: ma mister, e tu stai zitto. La risposta immediata è tranchant di Luis Enrique. Ora, io dico che se è vero un quinto, facciamo un terzo di questa ricostruzione, io ho l'impressione che alla Roma la situazione non sia semplicissima. È già arrivata una smentita, sono state di Franco Baldini, sono state fatte ricostruzioni fantasiose su quanto accaduto a Bergamo. Immagino si riferisca a Cataparo della Gazzetta, non è difficile indovinare. Per questo serve fare chiarezza, ha detto Baldini, quello che è successo realmente è quello che è stato riferito. Se ci si affida a fantomatiche fonti che o non esistono o non raccontano la verità, a questo punto fate come volete, fate da soli, ma non con noi. E questo è un messaggio rivolto evidentemente ad una stampa un po' troppo curiosa. Rimane il fatto che Baldini comunque era pur sempre il dirigente che in estate, meglio che niente, si era guastato con Totti, giusto per cominciare ad instaurare un clima da Ambrason Nun nello spogliatoio romanista, poi continuato con l'episodio Osvaldo Lamela e poi è culminato adesso in questo capolavoro di De Rossi. Tranquilli, ho parlato con Ranieri, ci siamo chiariti, lo ha detto Massimo Moratti uscendo dagli uffici della Saras riguardo alla posizione dell'allenatore dell'Inter. Carlo ha chiamato da Palermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io sono un tifoso del Palermo, voglio dire che la mia squadra è stata fortemente penalizzata, nonché offesa, così come i suoi tifosi, domenica pomeriggio. Volevo dire una cosa: il nostro grande presidente ha fatto, diciamo, del complottismo un po' così, lui è avverso a queste cose. Io non credo a questo, però sono convinto, cioè credo nell'incompetenza delle persone. Quindi evidentemente abbiamo avuto a che fare con una persona che non sa fare il suo mestiere, è incompetente, e quindi io sono convinto che si debba fare ricorso alla tecnologia. Alla tecnologia, sperando che la tecnologia poi te ne mandi uno migliore di chi era Gava, questo mi pare. Io credo che gli arbitri l'arbitraggio peggiore di giornata in assoluto credo sia stato davvero quello di Siena Palermo, seguito ex aequo da San Siro, ma anche da Genova, perché anche nell'anticipo di Genova al Parma gliel'hanno fatta di tutti i colori, a proposito di persecuzione del povero vecchio Zena, no? Che ogni tanto ritornano questi mantra. E quindi credo proprio che sia stata una giornata arbitrale di una infelicità, di una infelicità rara. Certo, sommare nel giro di non molti minuti due cantonate pazzesche veramente, come quella dell'espulsione di Balzaretti al primo minuto e pochi secondi di gioco per un fallo non da ultimo uomo, basta quello, no, mi pare, e poi cascare su un rigore per una cascata come quella di Brienza fa dubitare veramente della capacità arbitrale di questo Gava, insisto, secondo me è proprio Gava da Conegliano, arbitro mai piaciuto, tra l'altro, ma questo parere personalissimo e come tale di nessuna rilevanza. Leonardo Milano, buongiorno. Buongiorno, sì. Grazie per questa spalla che ci dà su cui piangere. Perché spalla? Sì, ci dà una spalla su cui piangere, perché io non so più cosa guardare, cioè se guardo i notiziari di politica, okay, sento che i giornalisti sono tutti comunisti, se guardo quelli sportivi i giornalisti hanno caricato l'evento, e voglio dire, non se ne può più, l'evento lo caricano loro, addetti ai lavori, la loro incompetenza, Nicchi che dice che le televisioni sviscerano ogni cosa, ma se non ci fossero, viva Dio, le televisioni, gli schiaffi di Ibrahimovic partirebbero ogni due giorni, così come quelli di McSest, eccetera, eccetera. Voglio dire, il mezzo televisivo va usato comunque. Io poi non ravviso questa cosa. Io invece noto che quelli che trasmettono in Sky, nella fattispecie, non stia così a indugiare come dicono sugli episodi, certo su quelli così clamorosi sì, ma il fuorigioco visto e non visto tendono un po' a lasciarlo scivolare nella cronaca. Su questo sono abbastanza d'accordo, infatti per ascoltare una telecronaca vera credo bisogna rivolgersi a Pellegatti, mi pare di aver letto, no, in questi in questi giorni. Vabbè, queste sono battute forse anche infami, sono battute magari scadenti, non discuto, ma questo io credo di ricordare, poi non vorrei rifilare delle colpe a una persona che qualcosa indubbiamente su qualcosa ha sbagliato, anzi su parecchio, ma ha pagato il suo conto per tempo. Credo che risalga a Giraudo l'idea delle telecronache tifosi, credo che risalga a una decina d'anni fa circa, a una proposta che lui fece proprio in sede di trattativa per cessione di diritti eccetera eccetera, allora per cercare di aumentare il bacino, comunque l'offerta di possibilità. Mi sembra di ricordare che fu lui a proporre tre telecronache diverse per ogni partita, e cioè la telecronaca faziosa per una squadra, la telecronaca faziosa per l'altra squadra e la telecronaca normale, diciamo, no, per persone normali. Indubbiamente quello fu, in ogni caso, fu un'altra tappa, no? verso dal mio punto di vista, verso il degrado. Poi magari invece c'è anche chi si diverte a sentire certi toni, a sentire, lasciamo stare che cosa. Snyder, del ritiro dell'Olanda, dice di Ranieri: Ranieri voleva schierare una formazione più difensiva, giocare più difensiva, e per questo mi ha cambiato. Ho la mia opinione al riguardo, la tengo per me. L'allenatore cerca ogni volta di motivarci, io cerco di rimanere calmo e cerchiamo tutti insieme di mantenere la serenità. Io non sono uno che dice che l'allenatore deve andarsene, inoltre sto sicuramente bene all'Inter. Marco ha chiamato da Pisa, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. No, niente, volevo dire dell'intervento del magistrato di Cremona, dell'amnistia che voleva proporre. Sì. No, mi sembra che sia una cosa improponibile. Poi volevo sapere da lei cosa succederà, se scopre, cioè i fatti delle scommesse, come andranno a influenzare la classifica, o se succederà qualcosa. Perché non ci la classifica non lo so, io su questo non posso. Io posso solo. La mia opinione è questa, soprattutto dopo essere stato ieri a Coverciano e aver visto proiettare in anteprima un filmato curato dall'AIC, che la federazione ha fatto proprio, che è stato sia la presidenza federale Abete che il presidente degli allenatori Olivieri a proporre proprio come visione ieri a tutti i tecnici di Serie A, B e Lega Pro che erano lì per la panchina d'oro, perché è l'inizio di una campagna di informazione e prevenzione per le squadre e per i giocatori, per sottolineare la gravità di questo fenomeno, ma la gravità soprattutto in termini di perdita di credibilità che il calcio progressivamente ha se non riesce ad arginare immediatamente o comunque il più tempestivamente possibile, ma il più in profondità possibile anche questo fenomeno. Questo è davvero una cosa con cui fare i conti e credo che il calcio di club anche dovrebbe essere, darebbe un buon segno di responsabilità se invece di accapigliarsi in quella maniera vereconda ai livelli più alti come stanno facendo Milan e Juventus provassero magari in questo periodo a occuparsi un po' più da vicino di problemi come questi, anche se magari non li riguardano direttamente. Mi piace pensare, scrive Roberto Pascali, che il calcio siano anche le prodezze dei colombiani del Lecce e la bravura di Cosmi. È un'utopia? No, non è un'utopia, è una pia, consolazione, intendo. Nicola Filippone e la sua, beh, non, in questo caso la sua non libera interpretazione del 28 febbraio. Sembra ieri. 28 febbraio 1990. Al Comunale di Torino va in scena l'andata della finale di Coppa Italia tra la Juventus di Dino Zoff e il Milan di Arrigo Sacchi. In campo regna assoluto l'equilibrio e il principale brivido arriva a inizio ripresa quando un petardo esplode a pochi metri dal centrocampista rossonero Ancelotti, che però decide di rimanere in campo e il Milan non presenterà alcun ricorso. Al ritorno, due mesi dopo, la Juve sbancherà San Siro con un gol di Galia, ottenendo così l'ottava Coppa Italia della sua storia. La stagione dei bianconeri si chiuderà in bellezza con la conquista della Coppa UEFA, ma il doppio trionfo non sarà sufficiente a Zoff per avere la conferma. La società deciderà di puntare sull'emergente Maifredi. Per dire come anche le grandi, e la Juventus è la più grande squadra d'Italia come tradizione, anche le grandi ogni tanto optino per la strada del suicidio, da Zoff a Maifredi. Alessandro da Firenze, buongiorno. Buongiorno, è veramente un suicidio, devo dire. Questo lo dice la storia ormai. No, punto di vista ultimo, sono totalmente d'accordo. No, io avevo chiamato per quanto riguarda Luis Enrique, ma prima che lei parlasse di quella storia degli spogliatoi, perché mi piaceva sottolineare come questo allenatore, a differenza mi sembra di praticamente tutti gli altri, abbia un bel atteggiamento nei confronti degli arbitri. Io a memoria non ricordo una polemica, una contestazione nei confronti di decisioni, presumo ce ne siano state anche sfavorevoli. Come no? Mi sembra che abbia un bel, probabilmente perché viene da un altro campionato, da un altro calcio. Se poi fosse vero anche la metà di quello che ha raccontato che sia successo negli spogliatoi, allora per me sarebbe veramente un mito. La saluto e la ringrazio. No, ma da un certo punto di vista è certamente un mito e in parte sono disposti, è disposto a riconoscerlo anche De Rossi, in parte. Da un altro bisogna sempre distinguere tra una società, una squadra di professionisti e un asilo più o meno infantile, insomma. E credo che questa sia una distinzione da tenere sempre un pochino presente. Sei sempre offensivo, scrive un ascoltatore che però non si firma, però dato che lo leggo lo stesso, perché dice: tu segui Carezza e Bergomi e invece Pellegatti è il mio Omero, e quindi Marendo, come dicono a Roma. Salvatore ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io penso di essere stato appena anticipato dall'ascoltatore che ha appena parlato. Comunque avevo telefonato proprio per De Rossi. Io ho sentito quello che ha detto a Luna in una radio e praticamente mi ha fatto molto piacere, perché quello che poi sarebbe giusto, normale, e che è difficile sentire alla radio, alla televisione, che un giocatore reputi giusto seguire delle regole che un mister, una società mette, e quindi ho avuto molto piacere. Era solo questo che volevo dire. Una notizia, tra virgolette, un po' bella in questi giorni, non, insomma, le notizie del calcio non sono state molto belle. Ecco. Sì, certo, però appunto c'è la versione ufficiale, c'è la versione Paramigos, c'è la giustissima linea di partire innanzitutto dalla disciplina dell'educazione, che insomma è un principio sacrosanto, però c'è anche dopo alcuni mesi, insomma, da valutare qualche altra componente, no? Allora insomma, rinunciare a De Rossi, cioè punire De Rossi con la tribuna anziché con una multa o con un altro genere di provvedimento, e poi prendere altre quattro pere come all'oratorio o come all'asilo, beh, insomma, sì, credo che una riflessione perlomeno l'autorizzi, ecco, se non altro. Paolo Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Una cosa volevo dire, tutte le telefonate di oggi mi riallaccio un attimo al discorso di Milan-Juventus. Qua tutti quanti diciamo è ora di finirla con queste pagliazzate, fra virgolette, insomma. E tutti quanti buoni, tutti quanti cattivi. Io dico solo una cosa, che è ora che anche certe trasmissioni sportive la smettano di buttare benzina sul fuoco, perché fresca fresca ne ho sentita oggi che un emittente sportivo questa sera fa rivedere un speciale Milan-Juventus per far rivedere tutte le fasi più salienti, le fasi più calde della partita. Mi sembra che questo sia buttare ancora benzina sul fuoco, quando sarebbe finalmente ora che tutti quanti continuassimo a parlare di calcio come voi di Radio 24 state cercando di fare da tanti tanti anni, visto che sono un vostro estimatore e vi seguo da molti anni. Basta, tutto qua. Ma grazie Paolo, io ringrazio della sua fedeltà, ma non sono così d'accordo, nel senso, cioè, ciascuno fa il suo gioco. Io credo che la TV abbia una componente di oscenità a prescindere, e buona parte della programmazione normale abbia questa componente al suo interno. In fondo questa potrebbe essere scambiata anche per documentazione, lo dico con... sperando si colga l'ironia, nel senso che credo che a tutt'oggi non un appassionato di calcio, ma una persona normale che per caso è passato davanti al televisore, inteso proprio come mobile come elettrodomestico, in questi ultimi due giorni e mezzo, credo che la sequenza Montari Buffon l'abbia vista ormai un centinaio di volte, ma ripeto, senza andarla a cercare apposta, se no l'ha vista alcune decine di migliaia di volte. Se ancora la sera del martedì esiste qualcuno che ha intenzione di rifarsi dell'altro male, ma lasci che se lo facciano, no? Lasci che se lo facciano e si compiaccia di avere altri gusti e di avere altri modi soprattutto di investire il suo tempo libero. Tanto qua c'è gente che continua a scrivere, non so, l'ultimo Andrea Giacomoni: cosa c'è di diverso tra il simulare un fallo da rigore ed estrarre dalla porta il pallone confidando nell'errore arbitrale? Giacomoni, con tutta la simpatia possibile, se non lo capisce da sé io non sono in grado di spiegarglielo proprio, nemmeno Omero Pellegatti credo che ci riuscirebbe, sinceramente. Giovanni da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. E secondo me il gol di Matri non era gol. Il gol di Matri, cioè quello dell'1-1? Era fuori gioco, secondo me. Quello convalidato? No, quello di prima. Ah, quello di prima. E sì, come... secondo me non era gol, perché io ho visto le immagini bene, ho visto che Abate era un po' più avanti di Matri, appunto. Vabbè, e Matri era un po', aveva la gamba sinistra un po' più a sinistra, diciamo. Cioè la gamba sinistra l'aveva, mi faccia capire bene, perché dato che questo è un colpo di scena, Giovanni, che credo potrebbe preludere a una rilettura davvero di questo. Sì. Come aveva la gamba sinistra? Si riguarda bene guardi, già anche stasera in questa trasmissione di cui si parlava prima, no, ho già disdetto tutti gli impegni eccetera, però mi faccia capire bene com'era questa gamba sinistra rispetto a come invece l'abbiamo vista finora, perché io ho visto bene, cioè il guardalinee Romagnoli, sì. E... aveva ragione quando ha alzato la bandierina, dicendo che rigiochiamola. Matri era un po' Giovanni, gioco. Rigiochiamola, dia retta a me, che forse è l'unica soluzione possibile. Grazie a lei per il suo intervento, grazie a tutti gli altri intervenuti, a Pietro Lacorte in regia, a Franco Piantanida in redazione, grazie a tutti davvero, appuntamento a domani.